Ciao a tutti, mi chiamo Davide Gatti e forse qualcuno di voi mi ha già visto o sentito su Survival Hacking, un podcast e un canale YouTube dove racconto su come riuscire, a volte con un po' di fantasia e a volte con un po' di fortuna, a risolvere qualche problema, sia lavorativo che della vita quotidiana, spesso a sfondo tecnologico, ma non solo. Mi sono innamorato dei podcast durante le mie lunghe passeggiate cercando di ascoltare qualcosa che potesse essermi utile e nello stesso tempo divertente e stuzzicante. Ho trovato molte trasmissioni che hanno davvero cambiato la mia vita. All'inizio ascoltavo passivamente e nella mia mente si formavano i volti dei miei idoli del podcast. Poi, pian piano, la cosa è diventata sempre più intensa fino ad arrivare a conoscere di persona qualcuno di essi e scoprire che appartenevano tutti ad un network dove davvero avrei potuto imparare moltissime cose. Sto parlando di Runtime Radio. Proprio parlando con loro è iniziato il mio percorso come conduttore, non solo di podcast, ma anche di un canale YouTube, dove oltre alla voce si possono vedere le mie mani al lavoro. Registro tutti i miei podcast in automobile, mentre vado o torno dall'ufficio, allo stesso modo di come sto registrando ora questo messaggio. In auto, da solo, riesco sempre a trovare il giusto ambiente per esprimermi con la massima libertà e soprattutto usando i tempi morti di quei lunghi viaggi mattutini che faccio oramai da 30 anni. Registro in auto proprio perché uno dei miei podcaster preferiti, Alex Arcuglia di Tecnopills, mi ha spiegato come poter fare per ottenere un risultato soddisfacente pur registrando in un ambiente rumoroso come l'auto in movimento. Mediante una buona tecnica di registrazione e un po' di post-process, il risultato è sorprendente. Ci soprannominiamo i podcaster. E grazie a questa opportunità che ho potuto avere una produzione costante di contenuti, in quanto a casa non avrei potuto, poiché non ho uno spazio dove poter chiacchierare in tranquillità. All'inizio non pensavo di poter dare il mio contributo, se non per qualche episodio. E invece oggi mi ritrovo con più di 150 episodi in attivo e altri 40 già registrati, oltre a 50 episodi video. Un traguardo ben più ampio di quanto potessi immaginare. All'inizio ero convinto che nessuno avrebbe mai ascoltato i miei episodi, raccontati in modo semplice e diciamo alla mano. Infatti non sono un professionista e non sono nemmeno un abile speaker. Nonostante tutto, anche se i numeri sono piccolissimi rispetto ai grandi podcaster, ho il mio bacino di affezionati, con i quali chiacchiero e scambio pareri sul canale Telegram Tecnopills Riot, dove ovviamente potrete trovare anche il mio mentore Alex Arcuglia. Ho iniziato a fare podcast a 53 anni, un'età dove mai avrei pensato di riuscire a trovare tanti nuovi amici con i quali condividere le mie passioni. Tutto ciò mi ha ridato una notevole energia che mi ha fatto tornare di nuovo in vita. Se posso dire, il podcast ha per davvero cambiato la mia vita. Ora mi sento un uomo migliore, che nonostante l'età è in grado di poter dare ancora qualcosa. Ma forse la cosa ancora più bella e incredibile è davvero la quantità di amici che sono riuscito a trovare, con i quali condivido giornalmente oramai parte della mia vita. Grazie ai podcast sono riuscito ad esprimermi come mai ho fatto prima. E la mia speranza è quella di lasciare una piccola traccia indelebile nell'universo attraverso i miei bizzarri racconti. Cercate Survival Hacking e troverete un nuovo amico. Survival Hacking è una trasmissione del network di Runtime Radio. Venite a vedere anche su www.runtimeradio.it chi siamo e cosa facciamo. Runtime Radio, una radio non solo da ascoltare, ma anche per pensare.